La Bibbia è parola di Dio, Dio ci parla, ci istruisce, ma non è l'unico strumento. Dio ha anche altre strade. Per esempio, la vita della Chiesa, la vita santa dei suoi membri, i santi. I santi sono una parola di Dio vissuta. E proprio oggi, 100 anni fa, il 20 febbraio del 1920, moriva quella che è la più piccola santa della storia della Chiesa che non sia martire, cioè Giacinta Marto. Questa ragazzina, sorella di Francesco Marto, che insieme a Lucia hanno visto la Madonna a Fatima, e vi leggo un piccolo profilo preso da un libro che sarà bello quando uscirà, scritto da Serafino Tognetti, Giacinta, e queste parole sono degli spunti scritti proprio da questo autore, Serafino Tognetti. È santa questa ragazza, è stata canonizzata il 13 maggio del 2017, non perché ha visto la Madonna. Ci sono diversi veggenti che non sono diventati santi nella storia della Chiesa, ma è santa per la sua vita. Nella prima apparizione del 13 maggio del 1917, la Madonna fece una domanda forte ai tre: volete offrirvi a Dio nel sopportare tutti i dolori che Dio vorrà mandarvi come riparazione dei peccati con cui è offeso e per la conversione dei peccatori? Tu pensa cosa va a chiedere la Madonna a tre ragazzini? La più piccola aveva 7 anni. E la più piccola è quella che la prende più sul serio. E quella si mise, anche gli altri due certamente, ma questa Giacinta si mise a fare il possibile e di più, soprattutto quando, dopo la visione del 13 luglio, i tre pastorelli hanno visto l'inferno. E ancora il 19 agosto sentono dalle labbra della Madonna questa parola: molte anime vanno all'inferno perché non c'è chi si sacrifichi e preghi per loro. Cari amici, se ne sentono di tutti i tipi, no? Quanta gente mi dice: ma l'inferno c'è, ma forse è vuoto. Beh, veramente la Madonna ha detto ai tre pastorelli diversamente. E io preferisco credere alla Madonna che credere a te. Chi sei tu? E allora questi tre pastorelli si misero ancora di più a fare penitenze e da bambini nella loro ingenuità ne hanno inventate. Per esempio, per fare penitenza nel cibo davano la loro merenda alle pecore o stavano tutto il giorno senza bere. Oppure si mettevano una corda ruvida attorno alla vita o sopportavano con letizia le persone moleste e curiose, poi recitavano rosari su rosari, insomma tutte le occasioni erano buone per offrire qualche sacrificio a Gesù. E qui Giacinta e Francesco hanno avuto due atteggiamenti diversi, e questo è interessante perché non è che tutti hanno la stessa strada. Francesco, per esempio, pensava solo a consolare Gesù e la Madonna. Il fratellino Francesco si sacrifica e prega per consolare Gesù e lo chiama il Gesù nascosto che stava nel tabernacolo. Egli si sacrifica e prega per consolare Gesù. Invece Giacinta offre, e le donne sono più generose di noi uomini. Le donne sono una potenza della natura, nel male ma anche nel bene. E lei disparatissima si offre tutta con le sue sofferenze, Il Signore la prende in parola. Giacinta si ammala gravemente di pleurite, viene operata e non dimenticate che siamo all'inizio del 1900 e la medicina è quello che è. Le tolgono due costole e resta un'enorme piaga che non si rimarginerà più. E una sera nella preghiera Giacinta si rivolge a Gesù e gli dice: Gesù, adesso puoi convertire molti peccatori perché io sto soffrendo molto. Cari amici, non buttiamo da superbi come siamo, non buttiamo giudizi su giudizi, perché questo che dice questa creatura è un fatto eminentemente biblico. San Paolo dice: completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo. E lei fa così, questa riparazione. Io vi invito, io stesso, quando uscirà questo libro, non è ancora uscito, di Serafino Tognetti, Giacinta, mi sforzerò di leggerlo per andare a scuola di questa bambina, anche se anch'io mi sento più vicino a Francesco. Io qualche volta, quando vedo e leggo questi santi, soprattutto donne, ripeto, che patiscono e patiscono, io vado in crisi. Dico: Signore, ma io non sono mica capace. Anche oggi glielo dicevo, sono venuto in anticipo qui in chiesa, come si prega bene in chiesa. E dicevo a Gesù nel tabernacolo: Signore, io non sono capace. E poi mi sono messo a ridere, perché è nato dentro di me un pensiero che mi sembrava, mi immaginavo io, una sua risposta spirituale. Dice: e chi te l'ha mai chiesto? Ah, che bello! A Francesco non l'hai chiesto, l'hai chiesto a Giacinta. Cosa chiedi a me? E mi nasceva in cuore come una risposta. Tutta fantasia, naturalmente, ma è bello nella preghiera dialogare e avere fantasia con Gesù. Mi sembrava che Gesù mi dicesse: tu devi essere tutto mio, come sacerdote e come adoratore mio nel tabernacolo, questo Gesù nascosto come Francesco e come mio predicatore. Diffondi la mia persona, diffondi la mia parola, diffondi la vita dei santi, fin dove riesci ad arrivare.